Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Trasformare i reflui fognari in metano e fertilizzanti, tra cui anche il fosforo, che è uno dei macronutrienti principali delle piante ed è sempre meno disponibile. È una prospettiva su cui si sono esercitati molto i ricercatori negli ultimi anni e che inizia a vedere le prime applicazioni su piena scala, come quella di cui parliamo stasera, che vede coinvolto l'impianto di depurazione di Niguarda Bresso, il quale raccoglie le acque reflue civili, industriali e meteoriche di una fascia di comuni a nord di Milano, con circa 220.000 cittadini serviti, e dove è stato messo a punto un impianto per la produzione di biometano da destinare all'alimentazione di automezzi. L'impianto è gestito dal gruppo CAP, di cui abbiamo in linea il presidente Alessandro Russo. Buonasera Russo. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Allora, senta, ci ricordi rapidamente il processo di depurazione, quali sono le fasi principali e quale di queste fasi vede appunto la produzione di biometano? Sì, allora i reflui fognari arrivano in un impianto di depurazione in cui vengono separate le parti solide dalle parti liquide. Le parti liquide vengono rimesse nell'ambiente, mentre le parti solide hanno un processo che avviene attraverso la digestione anaerobica, quindi di fatto ci sono dei grandi stomaci che riscaldano e producono energia. Ad oggi noi attraverso un gasometro produciamo biogas che serve a far andare le turbine, quindi per produrre energia elettrica. La grande novità è questo processo che stiamo mettendo in piedi, e cioè la purificazione del biogas per farlo diventare biometano. Quindi la produzione di biogas c'era già a partire da questi fanghi che rimangono a valle della depurazione delle acque, e il tema qui è trasformarlo in biometano, che è qualcosa di più pregiato. E qui arriviamo alla sperimentazione che state conducendo lì al depuratore di Niguarda Bresso. Quali sono gli aspetti principali? Beh, abbiamo siglato un accordo con una società estera che ci ha fornito un impianto appunto di trattamento, visto che in Europa già questa tecnologia è utilizzata, e abbiamo siglato un accordo di sperimentazione con una grande società automobilistica per avviare un processo di validazione dell'aspetto qualitativo del biometano. Ecco, che noi produciamo. Utilizzate delle membrane, vero? Utilizziamo per fare questa purificazione, cioè? È una separazione a membrane, fondamentalmente c'è un processo di osmosi che tratta il biogas e lo purifica, andando a togliere quelle che sono le sostanze che non c'entrano col metano. Ecco, alla fine esatto. Si arriva a metano puro al 95%. D'accordo, che è poi appunto il limite per definire questa cosa esatto. Metano. Quanto ne produrrete di biometano? Questo singolo impianto produrrà 341.000 circa chili all'anno, e per dare un'idea della dimensione sarà sufficiente a rifornire tutta quella che oggi è la nostra flotta, per cui oltre 400 veicoli. Ecco, sì, infatti diciamo su una base di 20.000 km all'anno sono più di 400 veicoli. Sì. Veniamo a quanto rimane invece dopo appunto questa digestione anaerobica. Avete detto voi prendete questo biogas, ci fate biometano eccetera eccetera, ma resta ancora qualcosa, no? Il cosiddetto digestato, che è solido. Che cosa ve ne fate e quali sono gli ulteriori sviluppi su cui state lavorando? Sì, noi stiamo lavorando nell'ottica dell'economia circolare, quindi non sprecare niente dagli scarti di produzione, per cui da questi fanghi noi avviamo un processo di disidratazione, e soltanto dalle parti migliori vorremmo andare a recuperare quelli che sono delle sostanze nutrienti di cui il mercato ha bisogno, tra cui sicuramente citava prima il fosforo. Oggi il fosforo viene recuperato da miniere di fatto esaurite, quindi sì. C'è una forte domanda di fosforo, e andare a recuperarlo dal prodotto, dal digestato, è sicuramente uno degli elementi di maggiore novità su cui Gruppo CAP è fra le prime aziende in Italia a sperimentare questo tipo di attività. Ecco, siccome questa è una partita abbastanza fresca, ci sono temi normativi di rilievo, leggi mancanti, cose del genere? Sì, abbiamo dei problemi normativi, perché ad oggi quella che è la produzione di biometano da rifiuti liquidi non è equiparata a quella da rifiuti solidi. Questo comporta due tipi di svantaggi. Il primo, che non possiamo immettere in rete quello quello che noi produciamo, per cui lo potete venderlo proprio. Non possiamo venderlo, lo possiamo utilizzare semplicemente per il consumo interno, ma non potremmo venderlo. E il secondo, che è un aspetto molto interessante, è legato alla parte degli incentivi, cioè noi non essendo equiparato non possiamo accedere a quelli che sono gli incentivi. Gli incentivi che sono previsti per il biometano prodotto da rifiuti solidi, corretto? Assolutamente. Che lì ci sono. E quanto pesano? Tenga conto che un impianto che noi oggi ci ripagheremo in circa 8 anni, ce lo ripagheremo in 4 anni con gli incentivi, per cui ci sarebbe una forte spinta a tutti i gestori del servizio idrico ad andare in questo tipo di direzione. Va bene, grazie Alessandro Russo. Grazie, buona serata. È tutto anche per questa sera, appuntamento a lunedì, buona serata.